Я научился тортурата, да царата массакрата. Мента сучит он твой деклину, су на роца дел дестино. Провиста мурир, не ум бамбино кол фучина. Суфокат агонизаре, тра ле трамбе дун лагер. Provista fatta a pezzi, сото и папагалли верди. Mentre piange piano, dolorante a Guantanamo. È la luce del tuo buio, ho visto il tuo massacro sotto il cielo a Pietroburgo. Ma rinasce la speranza, c'è che stolta si rincarna tra le piaghe del dolore, di chi spera ancora muore, forse stupida innocenza, alle carne le ferite. Ma rinasce la speranza sotto il sale tra le spine. Ho assistito a tuo funerale nei desapparessi del mare, quando in tanti ti han sparato in Cina nello stadio. Ho assaggiato dei colati e quel gusto un po' salato, per l'indifferenza attonita di chi ha visto ed ignorato. Nella retorica politica che legittima i massacri, in tutti quei silenzi dei colpevoli e ignavi, ho sentito il suono sordo del tuo corpo che cadeva, ammassata tanti anni.